Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. Era notte quando mi ritrovai nella celebre Via dei Mille, strada che deve il suo nome, credo, al passaggio dei Garibaldini in una mattina del settembre 1860. Oh, non rumori più, non suoni, da tempo mai, in questa monumentale fredda strada, ma solo il passaggio metodico di alcune persone note alla città, quanto prive di ogni funzione meno che decorativa. Il Caffè Moccia, una delle sue attrattive maggiori, spandeva sul marciapiede una dolce luce azzurra. Il locale, a forma di ferro di cavallo con la base rivolta alle vetrine, era deserto, tranne in una delle due sale con i tavolini di ferro rosso. Là, in piedi, conversavano amabilmente due persone. Guardando meglio attraverso i vetri, riconobbi John Slinger, che già la mia memoria aveva creduto di intravedere nella casa di via Galiani, stavolta in carne ed ossa, quanto può esserlo un uomo dedito ai sogni e impeccabilmente vestito, sorbiva lentamente un caffè. Di fronte a lui stava Gino Capriolo, noto per la sua rubrica comica Succede a Napoli, scritta in vernacolo, che viene trasmessa ogni domenica all'ora di pranzo da Radio Napoli, corredata da un folto numero di lettere del pubblico che gridano aiuto per questo o quel caso pietoso. Umana è definita dai napoletani questa rubrica, con la particolare compiacenza con cui le persone corrotte pronunciano parole pure ed elevate. Non mi fu difficile, nel discreto silenzio della strada e del locale, intendere il principio di un discorso in cui erano immersi due antichi intellettuali. Essi dissertavano su una questione sottilissima, di come il dialetto napoletano possa raggiungere, se approfondito, dignità di lingua. Citavano Di Giacomo e Rea. Si spostarono a questo punto e così potei scorgere dietro di loro, seduto a un tavolo e senza niente davanti, il ragazzo Vincenzo Montefusco, già parte dei compagni del gruppo Sud. Alto e brutto come un uccello, gli occhiali sul grande naso quasi fossero nati insieme, aveva lo sguardo strano e intento di quando si credeva solo. Un tic che gli era rimasto dal giorno che suo padre, un degno funzionario, era stato fucilato dai tedeschi, faceva che volgesse o alzasse ogni attimo il capo come se qualcuno lo chiamasse. Ma non c'era mai nessuno. Mi ricordava, lui, i suoi quadri cattivi, il rosso dei suoi nudi, come di anime dannate, e invece erano donne, ma donne di Napoli. Infine, la crocifissione, con l'ombra delle tre croci trasformate in altrettanti patiboli da cui pendevano silenziosi tre napoletani moderni. Certamente egli non prendeva caffè perché non aveva soldi e Cardillo, il cameriere, lo lasciava stare. In un angolo stava Cardillo, piccolo uomo dal viso consumato e patetico, e con un tovagliolo sul braccio, appoggiato di schiena a un muro, guardava i due signori e il ragazzo dal lungo collo che ogni tanto scattava. Non potrei dire che passasse nei suoi occhi un pensiero, ma certo sulle labbra era fermo un sorriso leggerissimo, inconsciamente stupefatto e pietoso, come chi veda dall'alto in aperte pianure città morte, scorga resti di necropoli, statue abbattute e il volo di qualche corvo. Forse tutto ciò non era vero, ed egli pensava alla sua vecchia vita e ai figli, ma tuttavia pareva. E in quel dubbio che egli pensasse e vedesse ciò che io vedevo, affascinata lo guardavo. Ed ecco che i due signori smettono di parlare e muovono qualche passo verso la porta. Questo fatto mi strappò alla mia contemplazione e, sgomenta l'idea di essere riconosciuta e salutata, mi staccai dalla vetrina e ripresi a camminare. Ma non volli andare avanti. Tornai indietro per la via Filangieri e, come ormai le poche luci erano accese, scorsi distintamente sulla soglia di uno di quei palazzi Guido Mannaiuolo, proprietario del Blu di Prussia, piccola galleria d'arte moderna. Uomo alto e bello, che in qualche modo ricorda un capitano inglese del secolo XVII, con i suoi occhi celesti, teneri e freddi insieme, stringeva nella sua bianca mano un ventaglio nero, qua e là sforacchiato dal tempo, e con quello si faceva aria di quando in quando, non perdendo di vista, mentre così oziava e pensava, gli abiti e le acconciature di quelle signore che gli passavano davanti sul marciapiede. Forse aspettava qualcuno che ancora non veniva, oppure era uscito sul portone solo per prendere aria. La giornata era molto calda e mi pareva di scorgere su quella faccia dalla pelle di avorio, su quelle labbra sottili e strette, nella figura appena più appesantita, non so che segni di una stanchezza e sudorazione non dovute solo all'estate. «Mia cara», mi disse con estrema dolcezza quando fui a pochi passi, «ho visto poco fa una cosa superba, un delizioso scialle nero con dei rami d'ortica rossi e una sola rosa vicino alla frangia. Sai, era come una notte senza speranza, vegliata da accesi ricordi. Ah, sono sicuro che ti piacerebbe. Compralo, oh, compralo!» Si ricordò improvvisamente che molto tempo era passato da quando mi aveva vista l'ultima volta e si compì in un certo senso in lui un processo di identificazione. «Ma sei cambiata», disse un po' turbandosi. «Quasi non ti riconoscevo, non è vero, Paolo?» disse volgendosi dolcemente a qualcuno nascosto dall'ombra del portone. E guardando dove lui guardava, scorsi Paolo Ricci, uno dei pittori più noti di Napoli comunista, uomo alto e rosso, che una volta si vedeva sempre nella redazione della Voce, ma da qualche tempo era scomparso e viveva raccolto nelle sue stanze della bellissima Villa Lucia. Non so perché, mi parve di scorgere su quella faccia un furore segreto, il dolore di doversi trattenere col gentile Guido non essendovi a Napoli scelta altra alle conversazioni e il sospetto di un giudizio compassionevole. Mi guardò e non rispose, anzi, torse la faccia verso il muro. «Ma bene, molto bene, mi fa piacere», proseguiva intanto col suo tono svagato, quella distrazione terribile di chi soffre senza più capirne le ragioni e quei soavi sorrisi Guido. «Ti tratterrai, spero. Come la trovi, Napoli? E Luigi l'hai visto?» «L'ho visto», dissi. «Sta bene, m'immagino». E poiché io non rispondevo, «Beh, di animo mi sembra molto sollevato». E continuando a fissarmi con uno sguardo più dolce della rosa che aveva prima evocata e insieme assolutamente triste, morto, «il suo spirito, lo stile, la serenità, c'est vraiment éclatant». Richiuse il ventaglio e tutto pensieroso, pieno di un'angoscia che non riusciva a nascondere, rientrò nella sua boutique. L'indomani si levò una giornata poco limpida, eppure piena di riflessi abbaglianti. Da ogni parte salivano gridi di venditori, acuti e tristi. Dovevo abbassare gli occhi per andare avanti, tanto la luce che filtrava da quelle immobili nuvole era intensa. In quel doloroso splendore, le case di via Roma, dove presi il 115 che vi avrebbe portata a casa di Rea, sembravano lì lì per franare, come una montagna di tufo. I 10.000 balconi e finestre scintillavano, e così le vetrine dei negozi, le insegne dei locali pubblici, le edicole dei giornali. M'era uno scintillio solitario, come di una città abbandonata. Era strano, ma questo che vedevo, per tanti aspetti, non mi sembrava un popolo. Vedevo della gente camminare adagio, parlare lentamente, salutarsi 10 volte prima di lasciarsi e poi ricominciare a parlare ancora. Ma qualcosa vi appariva spezzato, o mai stato, un motore segreto che sostituisce al parlare l'agire, al fantasticare il pensare e al sorridere l'interrogarsi. Solo il cielo a momenti viveva e la sua luce era tale che bisognava farsi schermo agli occhi. L'autobus mi portò in piazza Medaglie d'Oro e di lì, per andare in via Renella, casa di Rea, dovetti tornare indietro. A due passi dal quartiere più moderno di Napoli, il Vomero era viva e nera campagna. Orti, poche case basse, giardini cinti da muretti, dove spiccava qua e là un giallo o un rosso di garofani o vesti femminili. Occhi di donne e ragazzi, pieni di una vita furiosa, senza armonia alcuna. Una donna da un terrazzino ne chiamò un'altra, giovane, vestita di giallo e rosso, intenta nel giardino a stendere dei panni. «Mo vengo!» rispose cantando questa. Dal terrazzino la voce gridò dopo un attimo, impensatamente, «Puozzitta o sang!» Guardai la donna che aveva gettato l'augurio. Ora era già calma, assorta. La casa di Rea era alla fine di questi orti, in un edificio di recente costruzione, segnato col numero 77. L'aveva comprata da poco col denaro del premio e se ne diceva entusiasta. Guardando in alto, vidi una fila di terrazzini bianchi con delle cordelle tese da un muro all'altro, come già nella casa di Luigi, e da quelle pendevano un po' di biancheria, dei calzini. Una goccia, che non era di pioggia, mi cadde su una mano. Era mezzogiorno e non si sentiva un grido, una voce. Caddero altre gocce. Era la biancheria. Ebbi la sensazione che la famiglia fosse già in tavola e che la mia visita avrebbe portato un certo imbarazzo. Mi chiesi anche se non avrei fatto bene a ritornare più tardi. Poi guardai ancora quei calzini su in alto e la luce corrotta del giorno che ricopriva quegli alberi nani, quei giardini, quel paesaggio insieme sensuale e funereo. Quindi entrai. La porta alla quale bussai era all'ultimo piano. Non attesi neppure un secondo. Si aperse di colpo con uno scatto nervoso e vidi subito la signora Anna Maria, consorte del Rea, identica a Cora di Una scenata napoletana. Bella, magra, piccola, coperta di carne livida, una seta. Gli occhi grandi e neri avevano dentro una fettina di luce bianca, un velo, come se la giovane fosse sola o avesse a lungo viaggiato e fosse sfinita, desiderosa di quiete e di sonno. Si voltò indietro prima di parlarmi e allora vidi Rea. Il giovanotto stava addossato al muro della piccola anticamera, guardando dalla mia parte fissamente. Non avevo mai visto nulla di più reale, preciso, immobile, immutabile e freddo nella sua natura, come potrebbe essere un chiodo. Aveva una di quelle faccette terribili, pallide e appena torte, sforacchiate dal vaiolo, come si incontrano nella plebe, con due occhi neri, solo pupilla dietro le lenti, acutissimi. Ciò che mi colpì soprattutto fu la loro bizzarra espressione, tra l'estrema serietà delle bestie e l'umana inquietudine, la prudenza. Vestiva bene, calzoni grigio-azzurri, camicia color avorio, gilet di lana nocciola e scarpe di camoscio chiaro. «Ah, stai qua», disse con la stessa freddezza di compagnone, un allarme segreto. E non sorrideva, mi osservava. Tutto ciò non durò più di un lampo, tanto che se vi avessi fatto meno attenzione non avrei potuto notarlo. Egli si staccò dalla parete e sorridendo mi venne incontro. Allora anche la signora, che preferisco chiamare Cora anziché Anna Maria, sorrise e mi lasciò entrare. «Devi scusarmi», dissi un po' imbarazzata, «se vengo all'ora di pranzo, ma non hai telefono e non sapevo come fare. Luigi ti manda tanti saluti». Dissi la prima cosa che mi venne in mente per dissipare il mio imbarazzo. E con mia meraviglia, quel nome egli non sembrò notarlo. «Entra, entra! Stavamo mangiando, trovi anche Pratolini!» Fu introdotta in una cucina piccolissima, tipo case popolari, imbiancata a calce. Lo scrittore toscano, seduto a capo di una breve tavola, era in maniche di camicia, e sorrideva vagamente malinconico in mezzo al fumo che saliva da una grande zuppiera piena di pasta. Cora mise sulla tavola una bottiglia di vino nero e un piatto di pere gialle, e la tavola parve più luminosa. Alle spalle di Pratolini, la giacca dello scrittore pendeva da un chiodo sulla parete e dalla tasca fuoriusciva la testata dell'Unità. Mi guardavo intorno sorridendo, non perché fossi a mio agio, ma perché sentivo ancora fissi su di me, con una strana inquietudine, forse effetto dello scintillio delle lenti, quegli occhi duri, acutissimi, che mi avevano spiato nell'anticamera. Come tutti i veri figli del popolo, pervenuti a fortuna e grandezza improvvise, Rea non era mai tranquillo e continuamente sollecitava gli altri a un giudizio che talora non esisteva o, forzato, si palesava incerto. In quell'incertezza, vedendo egli nel malanimo contro di lui, furiosamente si difendeva, uscendone meno persuaso e felice che mai. La mia vista doveva aver sollevato in lui una vera ondata di affanni. Sempre guardandomi, egli sedé e cominciò a spezzare del pane con le sue piccole mani, apparentemente distratto eppure sordamente attento. Mentre Cora aggiungeva una scodella per me e accostava un'altra sedia alla tavola, feci qualche domanda a Pratolini, il cui sorriso un po' malinconico mi faceva pensare che neppure lui si sentisse veramente tranquillo quella mattina, e lo scrittore mi confermò che le voci che aveva sentito su un suo trasferimento a Roma erano esatte, in quanto aveva davvero lasciato Napoli, stabilendosi a Roma in una casa sulla via Appia. Il famoso romanzo su Napoli l'aveva finito, ma, e qui mi parve che una certa vergogna di fanciullo gli oscurasse la fronte, ma sentiva che tanti anni nella casa di Piazzetta Mondragone non erano serviti a rivelargli questa città, e adesso gli pareva che il suo lavoro ne fosse rimasto estraneo, desolatamente lontano. Era una città enorme, la più grande e imponente nel mondo, per il nocciolo pagano e solo nel segno delle sue ferite, cristiano. L'albero che era uscito da questo nocciolo non si capiva che fosse, né poteva dirsi a quale specie appartenessero le sue lisce foglie, i suoi molli frutti. Si fermò a questa immagine, e mentre io con tutto il cuore la provavo, mi accorgevo che intento in un solo pensiero, Rea, gomiti sulla tavola, mi osservava. E vi era nel suo sguardo quella sofferente ansia che gli conoscevo, di carpire il giudizio di un altro su di lui, qualunque fosse, per strozzarlo sul nascere, benché dopo questo fatto la sua smania non si sarebbe affatto placata. Mi sbagliavo, però, supponendo che tale ansia avesse me per oggetto. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.